Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio. Allora, da che cosa cominciamo? Intanto, vi ricordate la puntata di ieri sulla nuova imposta di bollo sui conti titoli? Beh, tutto cambiato, la dobbiamo praticamente cancellare, quella e quella che abbiamo fatto anche la settimana scorsa, perché il governo ha riscritto di nuovo le regole. L'imposta di bollo è stata riformulata in maniera progressiva a seconda del portafoglio di investimento che si ha in dotazione. Pertanto, chi volesse non la riascoltasse quella di ieri, perché non va fondamentalmente nei contenuti. Questo ci dà l'idea in sostanza di quanti cambiamenti di nuovo si stanno apportando alla manovra economica del governo rispetto all'iniziale stesura, e quindi ci ritorneremo molto dettagliatamente nella prossima settimana, non appena domani il governo appunto la approverà definitivamente. Saremo come sempre puntuali con le nostre informazioni, con la collaborazione dei colleghi del Sole 24 Ore. Questa è una cosa che ci tenevo a dirvi, anche perché effettivamente anche le modalità che abbiamo spiegato ieri di applicazione della nuova imposta di bollo ha un po' generato qualche preoccupazione fra molti ascoltatori, peraltro molti aspetti non erano ancora chiariti, ma siccome sono arrivate appunto queste rimodulazioni, le ennesime, allora quando avremo di nuovo il dettaglio preciso della norma secondo una definitiva formulazione, ci ritorneremo appunto sull'argomento a partire dalla settimana prossima. Oggi abbiamo scelto un altro tema, ma prima di presentarvelo vi racconto quello che accade in borsa, perché abbiamo già l'idea che ci sarà un'altra giornata interessante. Dopo i nuovi interventi delle ultime ore delle agenzie di rating, le borse stamattina in Europa erano partite con il segno meno, poi con la diffusione del bollettino mensile della Banca Centrale Europea avevano ripreso un po' di respiro e adesso tornano di nuovo tutte giù. Fitch ha declassato di nuovo il debito greco, scatenando di nuovo stamattina l'ira delle autorità europee, che come sapete stanno invocando una riforma delle rating agency. Poi ieri Moody's ha detto di aver messo sotto osservazione il debito americano per un possibile declassamento, anche in questo caso l'affidabilissimo debito americano ormai anche questa convinzione si va, come dire, sempre di più deteriorando, anche perché come sapete c'è la forte battaglia anche in congresso per innalzare il tetto del debito statunitense, tema che peraltro è stato affrontato stamattina anche da Oscar Giannino. Beh, tutto questo sta rigenerando di nuovo un po' di tensione sui mercati. L'euro aveva recuperato bene sul dollaro fino a 1,4280, adesso si ritrova intorno a 1,42, le borse invece sono di nuovo negative. Poi vi racconto nello specifico cosa è successo a Piazza Affari stamattina. Parigi intanto segna un meno 0,94%, Francoforte meno 0,56%, Londra meno 0,99%, Milano meno 0,98%. Milano stamattina è partita subito con un ribasso di un punto percentuale secco. Lo ha recuperato tutto, è arrivata a guadagnare mezzo punto. Poi c'è stata l'asta di BTP a 15 anni e il mercato azionario ha ripreso a scendere. L'asta peraltro è andata bene, nel senso che c'è stata una forte domanda di titoli italiani, non c'è stata nessuna difficoltà di collocamento, almeno secondo quello che ci risulta fino a questo momento. L'unica cosa da segnalare è che chiaramente il tesoro sta cominciando a dover riconoscere tassi di rendimento sempre più alti. Il BTP a 15 anni stamattina è stato offerto ad un tasso del 5,90% al massimo dal lancio dell'euro. La domanda è stata pari a 2 miliardi e 600 milioni di euro contro 1 miliardo e 720 milioni offerti. Il BTP a 5 anni è stato venduto al 4,93%, in questo caso ai massimi dal giugno del 2008, con una domanda quasi doppia rispetto al 1,250 miliardi offerti. Dopo questa asta, Piazza Affari ha invertito la rotta e si è riportata in negativo, e peraltro è tornato anche ad allargarsi lo spread fra il BTP e il Bund, quindi il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco, il benchmark europeo, è tornato ad ampliarsi. Il premio di rendimento si è appunto allargato a 292 punti dopo aver viaggiato nella prima parte della mattinata sui 280, ma ricordiamo che nei giorni scorsi era schizzato addirittura vicino ai 350 punti base. Questa è la situazione di stamattina, con Milano che vede premiati soprattutto due titoli che hanno avuto un buon giudizio da due case di Investimento Fiat Industrial più 2,13 è stata promossa da Goldman Sachs. Per questa società Fiat Industrial è un buy, un titolo da comprare. Luxottica invece è stata promossa dagli analisti, anche in questo caso con un buy, un giudizio comprare, dagli analisti appunto di UBS, il titolo in rialzo di 2 punti. Campari bene 1 punto di rialzo, Exor più 0,70, Buzzi Unicem più 0,46, mentre in discesa stamattina ritroviamo Parmalat meno 2,73, ritroviamo di nuovo tutte le banche. Intesa San Paolo meno 2,62, Banca Popolare di Milano meno 2,30, Generali meno 2,28, Mediobanca meno 2,14, Ubibanca meno 1,94, Impregilo meno 1,86%. Questi direi che sono i temi più importanti della seduta di Milano. Oggi aspettiamo anche Wall Street, la sua reazione alla decisione di Moody's di ieri sera. Abbiamo molti dati macroeconomici e li seguiremo sicuramente nel pomeriggio. Oggi per presentarvi Salvadanaio abbiamo scelto una strada un po' differente dal solito. Vi raccontiamo la storia del signor Virginio Oro, che è un ex maresciallo dei carabinieri in pensione. Qualche tempo fa, rimettendo a posto i cassetti della casa di suo papà a Castagnole di Paese, in provincia di Treviso, se non mi ricordo male, ha ritrovato quello che lui ritiene essere un piccolo tesoro, un vecchio libretto di risparmio ingiallito di cui aveva perso completamente le tracce. Lo abbiamo raggiunto poco fa. L'ho trovato casualmente, perché abbiamo messo a posto la cantina, c'era mia figlia che mi dava una mano, e così, tirando via tutto quello che c'era, mia figlia l'ha trovato. E ora le ho detto, buttalo via, dico, perché qua non ci danno niente, è troppo vecchio. No, dice papà, lo tengo per così, per tenere noi. Io ero ragazzotto, avevo 16-17 anni, 15-16, se non ricordo la data, mi sembra che erano 48-49, era circa 50 anni da dire. Qualche settimana fa ho visto sul gazzettino, ho letto che uno da Udine aveva gli stessi problemi miei con 5.000 lire. Abbiamo trovato il numero di telefono, dice, provi a vedere questi avvocati qua, anche lei, era stato a Roma, ho trovato questi signori e così ci siamo messi alla ricerca di tutto. Ancora stiamo aspettando a vedere come che va le cose. I giornalisti mi avevano fatto, ho visto qua sul gazzettino, proposte grosse che ci daranno, ma no, io non ci credo tanto. Comunque, certo che i soldi sono miei, perché li ho messi giù privandomi di tante cose quando ero ragazzo, e quindi ho sudato per avere questi soldi qua. Non ho più trovato questo libretto, fatalità l'ha trovato mia figlia rovistando tutte le cose, le cassette, le carte che avevo. Sarei contentissimo se mi dessero qualcosa, anche perché sistemerei i figli e anche i nipoti. Ho 80 anni, quindi vorrei vivere ancora un po' buoni, più 80. Se posso arrivare a 90 o 100 arriverei molto volentieri. E effettivamente ha ragione il signor Oro, peraltro ha un cognome anche che ci così riporta anche esattamente a descrivere la sua storia in qualche modo. Pensate che dal suo avvocato si è fatto fare i calcoli rispetto a quanto varrebbe oggi il contenuto del suo vecchio libretto di risparmio. Nel 57, quando se ne erano perse le tracce, c'erano depositate 49.182 lire, 49.000 lire, quindi quasi 50.000 lire, che adesso, secondo tutta una serie di calcoli che il suo legale ha fatto, poi parleremo anche di questi, varrebbero 8 milioni di euro, 16 miliardi delle vecchie lire, quindi pensate un po', magari servirebbero anche a Tremonti in questo momento per alleggerire la manovra economica. Detto questo, un attimo prima di presentarvi gli ospiti, perché è ripartito il rally dello spread fra BTP e Bund, il differenziale si è allargato adesso di nuovo oltre i 300 punti e speriamo che questo non ci porti ulteriore preoccupazione nel corso della giornata sul mercato finanziario. Allora, buongiorno a Fabio Picciolini, segretario nazionale della Dicomsum, buona giornata. Buongiorno. Allora, e poi abbiamo anche Alessandro Palmigiano, un avvocato di Palermo, esperto in diritto dei consumatori. Avvocato Palmigiano, buongiorno. Buongiorno. Sarà stata una curiosa coincidenza, fatto sta che negli ultimi giorni ci è capitato di trovare molte storie sui giornali di persone che, rovistando fra i cassetti di vecchi comò, hanno ritrovato vecchissimi libretti di risparmio con depositi di poche centinaia appunto di vecchie lire. Carta straccia, potrebbe sembrare, qualcuno forse ha anche buttato via questa documentazione, Tutt'altro, secondo questo gruppo di solerti avvocati, ce ne sono un paio soprattutto a Roma, che si stanno invece specializzando nel ricalcolo di queste somme e soprattutto nel tentativo del loro recupero presso le poste o presso appunto istituti bancari. È così facile però questo recupero, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che negli ultimi anni è intervenuta la normativa sui conti dormienti, che dà la facoltà alle banche e poi al Ministero dell'Economia di ritirare le somme di conti e depositi non movimentati e non rivendicati per 10 anni. E allora, oggi parliamo di tutto questo. Se volete, raccontateci, qualora vi fosse capitato un caso del genere, la vostra storia all'800 24 00 24. Cercheremo di capire se ci sono i presupposti per recuperare con facilità questi denari. In realtà le procedure non sono per niente così facili, anche perché molto spesso abbiamo scoperto, poi lo racconteremo, che alcuni depositi, che alcuni libretti di risparmio erano stati aperti e sottoscritti presso filiali di banche che oggi non esistono più, che sono stati appunto acquisiti da grandi istituti, per cui effettivamente risalire anche allo sportello originario è complicatissimo, e quindi questo rende ancora più ardua la procedura appunto per il recupero di questo denaro. E addirittura invece ci sono dei legali che hanno pensato di attivarsi con un'iniziativa di azione collettiva, di class action, proprio per obbligare banche e poste a ricalcolare queste somme e a restituirle ai legittimi proprietari. E allora Alessandro Palmigiano, avvocato palmigiano appunto a Palermo, lo abbiamo interpellato perché anche lui si sta un po' specializzando su questa materia. Da quello che ho capito, avvocato, anche a lei a Palermo sono capitate molte storie di questo tipo. Lei ci si sta divertendo oppure sta raccogliendo del materiale utile davvero a, non lo so, creare in qualche maniera una giurisprudenza che permetta poi di attingere a tutti coloro che sono interessati a queste storie, un'esperienza tale da poter utilizzare per il recupero appunto di questi denari? Ma guardi, sì, effettivamente il nostro studio si è occupato spesso di questioni bancarie dal lato di tutela ai consumatori, e siamo stati anche noi investiti da tantissimi casi, tantissime persone che ci hanno portato dei libretti del 43, del 47, del 50, libretti antichissimi con poche lire, poche centinaia o migliaia di lire. E, diciamo, sì, c'è questa voglia adesso, tutti, anche perché ci sono stati vari articoli su siti web, sui giornali, per cui automaticamente chissà in quanti hanno ribaltato le loro case, no? Per cercare magari qualche piccolo tesoro nascosto. Sì, assolutamente. Chiunque incontro, anche mio padre stamattina mi ha detto: ho ritrovato un libretto. Sì, beh, la fobia. La fobia del libretto di risparmio dei nonni e dei bisnonni, sì. Sì, assolutamente, diciamo che indubbiamente la situazione, ecco, al di là del fatto che tutti pensano di essere, o molti pensano di essere diventati milionari, va vista con cautela. Non è da escludere che in alcuni casi si possa fare qualche cosa, però ecco, non è così automatico, non è così semplice. Si è detto di questa class action, io francamente non ho letto l'azione, per cui non mi sento di esprimere giudizi. La mia perplessità nasce dal fatto che nel momento in cui la norma sulla class action fu approvata, è stato previsto che la class action si applica per i fatti, per gli illeciti successivi al 15 agosto 2009. Questo fu detto, fu fatto anche per agevolare le banche e quindi evitare che fossero coinvolte per class action in materia che fossero chiamate a rispondere, ecco, per casi molto molto indietro nel tempo, certo. Esatto, dico questo però, per carità, ovviamente nel diritto non esiste certezza assoluta, tutto è discutibile e argomentabile, però certamente è, secondo me, un punto difficile da superare, o comunque non agevole. E poi senz'altro, se la class action verrà approvata, comunque verrà dichiarata ammissibile, ho letto che la prima udienza sarebbe a fine dicembre, sarà data una pubblicità e quindi evidentemente le persone in questo caso avrebbero modo di intervenire. Con questa azione collettiva ricordiamo che l'obiettivo è quello di far riconoscere appunto a banche e poste i valori reali di questi libretti che si erano smarriti nel tempo, che sono stati poi ritrovati, e quindi chiaramente i legittimi proprietari, magari gli eredi, chiedono appunto appunto di attualizzarne i valori e di vedersi soprattutto riconosciuti. Certo che è incredibile, con tutto quello che è successo in questi ultimi 50 anni nel nostro paese, come effettivamente 50.000 lire della fine degli anni 50 possano essere diventati 8 milioni di euro, 16 miliardi delle vecchie lire. Ci credo che il signor Virginio Oro ci vuole mettere le mani su questo tesoro, ma queste sono situazioni che sono capitate a tanti altri signori nel nostro paese. Il collega Pierangelo Sapegno della Stampa ne ha ricostruiti tanti di questi casi, ma tra l'altro poi il passaparola crea un domino infinito, sono nati tanti blog in cui tante persone si stanno confrontando su queste situazioni per capire appunto che cosa possono fare. Tra un po' devo già andare a fare la prima pausa. Fabio Picciolini l'ho chiamato perché con lui voglio ricordare un po' tutta la disciplina dei conti dormienti, ma le chiedo subito un commento su queste vicende, che hanno sicuramente del divertente, del folcloristico, del pittoresco, però giustamente queste persone dicono: vabbè, avevo smarrito questo libretto, io però questi soldi li avevo depositati, sono miei, perché li devo regalare a qualcuno? Ma come diceva l'avvocato Palmigiano, che saluto, certamente il diritto non c'è mai una cosa certa, basta avere un buon giudice e si trovano soluzioni. Personalmente noi non abbiamo sposato questa causa come associazione perché ci sembra abbastanza temeraria. Ci sono questa causa nel senso dell'azione collettiva di cui parlavamo prima, anche individuali non stiamo pensando, perché da un lato c'è appunto la nuova normativa sui conti dormienti di cui parleremo fra poco, ma se ricordo bene l'avvocato Reggiano mi può aiutare, c'è anche una sentenza di corte costituzionale già avversa a questo argomento. Aggiungo prima dell'intervallo che comunque mi dispiace per il dottore, ho fatto un calcolo al volo mentre voi parlavate, credo sempre una cifra importante, ma credo che staremo al massimo fra i 250.000 e i 300.000 euro, mai 8 milioni. No, comunque buttiamoli via pure quelli, per carità. Da vecchio caro funzionario della Banca d'Italia, Fabio Picciolini si è messo subito a fare i conti, calcolatrice mentale alla mano, e dare appunto le giuste proporzioni ai fenomeni economici di cui raccontiamo. Allora, adesso ci fermiamo e naturalmente ci saranno anche tanti blog che raccontano le storie appunto di cui stiamo parlando questa mattina, ma anche Salvadanaio non è da meno, perché vedo che in molti ci stanno raccontando le medesime storie appunto di ritrovamenti, di libretti di risparmio risalenti a 20, 30, 40 anni fa. E allora che cosa si può fare? Franco da Napoli: ho un buono fruttifero postale datato 1952, posso recuperarlo? Mi fu regalato dalla nonna quando sono nato. E ancora qualche altro ascoltatore: dopo la morte di mio suocero abbiamo trovato due libretti del 45 e del 48, in totale 250 lire, incredibile. Sono Cariplo, oggi Intesa San Paolo. Prima di attivarci vorremmo capire il valore, le tabelle su internet danno delle rivalutazioni ridicole. È così, ci chiede Fiorella. Avvocato Alessandro Palmigiano, effettivamente anche quando raccontavo la storia del signor Virginio Oro, che è quello che appunto abbiamo recuperato, il signore che abbiamo recuperato questa mattina, che ha trovato questo libretto di risparmio con 50.000 lire dentro, e secondo i calcoli fatti dal suo legale oggi sarebbero diventati 16 miliardi delle vecchie lire, 8 milioni di euro, molto ridimensionata la cifra secondo i calcoli fatti al volo invece dal nostro Fabio Picciolini di Adiconsum. E detto questo, secondo lei come si fa a fare la rivalutazione corretta degli importi contenuti in vecchissimi libretti? Abbiamo delle tabelle di riferimento, come ci chiede Fiorella? Insomma, come facciamo? Perché ci sono dei coefficienti di rivalutazione precisi, tassi di interesse, l'inflazione, la capitalizzazione per gli anni di giacenza in banca, che parametri dobbiamo prendere? Ma guardi, secondo me il riferimento da fare sui libretti vecchi, la norma prevede che sia l'interesse contrattuale previsto, quindi quello che le parti sostanzialmente hanno pattuito. Se questa prova però non è data, interviene meno male la giurisprudenza ritiene 1815-1284, sostanzialmente il tasso di interesse legale, cioè se non vi è la possibilità di dare prova di quello che era il di condizioni pattuite diversamente. Esatto. C'è da dire che appunto va comunque, se io posso dare un consiglio, al momento in cui queste persone verificano l'esistenza di questi libretti, di verificare tanto che sono iscritti ai depositi dormienti, ne parlerà credo Fabio Picciolini, sì. Io saluto. E se così non fosse, dico, perché può anche capitare che le banche, prima dell'entrata in vigore di queste normative, credo che li appostavano laddove erano di importi comunque modesti, non rivalutandoli, li appostavano sostanzialmente, li consideravano come più quasi non esistenti, per cui nel momento in cui c'è una, potrebbero pure, ecco, non essere transitati in questa lista dei depositi dormienti. Proprio perché non considerati esistenti, prescritti in qualche maniera. Sostanzialmente sì, o perché inferiori a certi importi e quindi... Per cui comunque una cosa da fare è, nel momento in cui non risultano fra i depositi dormienti, io comunque una raccomandata in cui si chiede la restituzione di questo importo oltre interessi e magari l'estratto conto, la farei. C'è ovviamente, che lo accennava anche Fabio Picciolini, il problema della prescrizione, cioè questi libretti danno sì diritto ad avere le somme indicate. Però nei 10 anni dall'ultima movimentazione, secondo un indirizzo, secondo alcune sentenze, questo diritto di credito si perde, quindi c'è questo grosso rischio. Quindi questo, peraltro, avvocato, se mi permetto di dire, che forse rende ancora un pochino più complessa, secondo il mio punto di vista, l'eventuale evoluzione dell'azione collettiva della quale parlavamo prima, perché ci sono casi talmente differenti che forse metterli tutti insieme in una medesima azione per rivendicare un'unica cosa, beh sì, magari si può stabilire il principio che Banche e Poste possano rivalutare i contenuti di questi libretti di risparmio, quindi far valere questa regola. Non lo so, Fabio Picciolini, posso intanto chiederle come ha fatto lei il conteggio prima della... Ho fatto molto alla Carluna, ho fatto e non è possibile, ho detto veramente molto, ho calcolato un 10.000% di rivalutazione, tenendo conto sia degli interessi, addirittura ho pensato agli interessi contrattuali, mi sono movimento un po' gli interessi contrattuali di questo periodo, che sono anche arrivati al 14-15%, più ho fatto la domanda che faceva lei all'avvocato Parmigiano, la rivalutazione normale della lira secondo i dati ISTAT, cioè ci sono delle tabelle predeterminate, ovviamente ripeto, sono fatto molto alla Carlona a mente, ma credo che più del 10.000% anche in 20 anni o in 30 anni o in 40 anni mi sembra un pochino troppo. Certo, allora l'avvocato Parmigiano ci ha dato intanto il suggerimento di scrivere, per non saperne leggere né scrivere, scriviamo una raccomandata alla nostra banca di riferimento, quella presso la quale questi libretti di risparmio appunto sono stati aperti. Se io ne ho trovato uno, cerchiamo di risalire appunto allo sportello bancario presso il quale l'operazione è stata fatta. Poi ci suggerisco. Sì. C'è anche un altro passaggio che forse può essere fatto anche se ha un costo. Le banche sono obbligate a tenere la documentazione di un rapporto aperto per 10 anni dopo la conclusione del rapporto stesso. Quindi per rapporti magari del 1990 o anni 80, forse in banca si riesce anche a trovare un qualcosa che dia informazioni su quel rapporto, e questo è un altro passaggio possibile. E il problema è che stamattina parliamo di rapporti contrattuali aperti in epoca molto precedente, parliamo di qualcosa aperto tra la fine degli anni 40, 50 e 60. Allora, secondo lei vale la pena fare un giro sul sito internet della Consap, che è questa società partecipata dal Ministero dell'Economia che sta gestendo appunto la questione dei rapporti dormienti, perché mi risulta che da lì c'è un motore di ricerca dove intanto risulta se io sono titolare di un rapporto dormiente. Sì, avvocato, sì, dottor Picciolini, sì. Sì, esatto. Allora c'è sia la possibilità di vedere il numero del conto, della polizza, dell'assegno, ovviamente tutti hanno periodi di prescrizione diversa da 2 a 10 anni, ma in alcuni casi, per esempio per i libretti al nominativi, si può risalire anche attraverso appunto il nominativo della persona che ha aperto quel libretto. Questo è obbligatorio che ci sia anche in ogni sito delle banche e sul sito delle poste, cioè ognuno per legge, ogni soggetto con rapporto aperto deve poter dire, deve poter far capire al consumatore, al cliente bancario che esiste, se esiste o no nei depositi questo conto dormiente. Allora, poi ricordiamo tutta la disciplina del conto dormiente, dottor Picciolini, così facciamo anche un servizio aggiuntivo stamattina ai nostri ascoltatori e non solo a quelli che hanno ritrovato libretti di risparmio di 50 anni fa. Però tra questi c'era Stefano da Pescara, che è uno dei pochi fortunati, non so almeno se si ritiene tale, che andando in banca dopo questo recupero è riuscito a riottenere qualcosa, quindi non ha ricevuto un no da parte del funzionario che gli ha detto appunto questa carta straccia, come invece è capitata ad un'altra ascoltatrice di Verona, Elisabetta, di cui poi vi faremo sentire la testimonianza. Stefano da Pescara, vorrei sentire il suo caso. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. No, io ho sentito il caso del signor Oro e mi sono incuriosito, perché siccome è successo anche a me, non direttamente, perché a mio padre, in pratica quando l'anno che mi sono sposato, quindi nel 99, facendo ristrutturazione, abbiamo trovato questo famoso libretto di deposito bancario acceso da mio padre alla fine degli anni 50. E mi ricordo che c'erano circa 5.000 lire all'epoca. E siamo andati in questo istituto bancario che era ancora aperto e, visto questo libretto, ci hanno detto: guardate, purtroppo dopo un tot periodo di tempo questi libretti diventano dormienti, non sono più rivalutabili. Ci hanno fatto un conto su per giù e alla fine mi ricordo che ci hanno liquidato con 300 o 400 mila lire. Alla fine degli anni 90, quindi c'erano ancora le lire, Stefano. Però adesso, a parte tutto, non le hanno fatto tanto una storia lunga. In ogni caso, qualche cosa le hanno riconosciuto. Poi magari non so se avrebbe potuto spuntarlo di più, forse la percentuale applicata da Fabio Picciolini le avrebbe permesso di ottenere qualcos'altro. Comunque, grazie. Sì, avvocato Palmigiano, sì. Che ne pensa di questo caso? Ma guardi, questo probabilmente sì, anche è possibile, peraltro. Io volevo concludere sul fatto della prescrizione, che si correla a quello che ha detto questo ascoltatore. La prescrizione, peraltro, al di là che ci sono anche teorie giuridiche per cui nel caso dei libretti, siccome sono fruttiferi, non decorrerebbe, ma comunque lasciando perdere queste questioni da specialisti, le banche, mi consta, ne parlavo col responsabile dell'ufficio legale di una banca, in passato, anni fa, quando capitavano questi casi, spesso non eccepivano la prescrizione. Perché la prescrizione va eccepita, ecco, questa è una regola del processo, se non è eccepita allora il diritto resta, e le banche, per una questione di immagine, di rispetto dei propri correntisti, capitava nel passato che non lo eccepivano. Ora certo l'ottica degli istituti di credito è un po' diversa, francamente, più commerciale, quindi io dubito che non ci sia l'eccezione di prescrizione, però pure questo è un problema aperto, per cui ecco perché dico comunque nell'incertezza, insomma, una raccomandata va fatta perché tanto ormai. Io quello che invece voglio raccomandarmi a tutti quei nonni che stanno facendo così dei regali ai propri nipoti, rendendoli ovviamente all'oscuro magari di questo, perché e si vuole cominciare ad accantonare qualcosa in vista del momento in cui i ragazzi saranno grandi, cominceranno a studiare, avranno bisogno appunto di denaro per l'avvio delle loro attività di studio e anche professionali. Magari ditelo a qualcuno che questi rapporti li aprite con le banche. Perché poi ecco, poi capitano qualche volta le disgrazie, tante cose, non si sa, queste, non vorrei appunto che magari fra qualche anno ci ritroviamo a parlare di altri tipi di rapporti con le banche che si riaprono nelle stesse medesime condizioni in cui si sta riaprendo appunto il caso di tutti questi libretti di risparmio che si stanno trovando in questo momento. Per cui magari ecco che non si facciano queste operazioni proprio completamente all'oscuro di tutti quanti. Elisabetta da Verona, buongiorno. Sì, da Venezia, da Spezia, sì. Buongiorno. Buongiorno, mi buongiorno scusi. A tutti. Fatalità, io adesso sto ritornando da Montagnana, dove siamo andati alla banca perché appunto abbiamo ritrovato questo, io e mio marito abbiamo trovato questo libretto di 1.500 lire, 2.500 lire del 61. E siamo andati alla banca. Era di suo papà, Elisabetta, oppure di suo suocero? No, di uno zio di mio marito. Ecco. Allora siamo andati alla banca e stamattina appunto il funzionario della banca ci ha detto: guardate, questo è un libretto che attualmente è carta straccia, ormai non serve più a niente, se volete potete venderlo a un mercatino e prendete più soldi. Vabbè, ecco. 2.500 lire, vabbè, qualche 2-3 euro. Ecco, Elisabetta, quindi insomma lei ha ricevuto... Proprio... Nel ritorno abbiamo sentito la vostra trasmissione, allora vi abbiamo chiamati perché... ci facciate un po' di luce su questa cosa. Infatti no, perché invece il signor Oro, che abita a Treviso, dà le 50.000 lire sul suo libretto di risparmio aperto proprio 50 anni fa, addirittura ha la speranza di poter ricavare 8 milioni di euro, per cui mi sembrano delle visioni nettamente contrapposte. È chiaro che al signor Oro non gliel'ha detto la banca che avrà tutti quei soldi, ma il suo legale. In questo caso invece Elisabetta ha la sensazione di avere carta straccia secondo le indicazioni date dal funzionario di banca. Fabio Picciolini, comincio da lei per chiederle appunto un commento rispetto al caso della nostra ascoltatrice di Venezia, che proprio questa mattina ha ricevuto questa risposta dal funzionario di banca alla quale si era rivolto. È carta straccia quello che lei ha in mano? purtroppo molte banche stanno rispondendo così. Ripeto, non ci crediamo molto, però fare una verifica non costa niente. Però in questo funziona di banca, questo tipo di banca ha detto una cosa non sbagliata, perché se uno si diverte ad andare nei mercatini delle Pulci, Porta Portese a Roma, piuttosto che Portobello a Londra o qualunque cosa sia, ci sono queste stranissime vendite di vecchi titoli, titoli azionari che non valgono più niente, cose che vengono venduti quasi come numismatico, se le dire, anche se il nome non è esatto, quindi perché eventualmente, piuttosto che perderli, perché non provare anche quello? E infatti, certo che però, qualora poi il signor Oro, creando una significativa giurisprudenza, avesse ragione, il Tribunale di Trento, che è quello al quale il suo avvocato si è rivolto appunto, se gli desse ragione rispetto al calcolo che ha fatto attualizzando queste vecchie 50.000 lire, è certo che molti si mangerebbero poi i gomiti di aver venduto i vecchi libretti di risparmio ai mercatini dell'usato. Avvocato Palmigiano, chiedo anche a lei un commento rispetto al caso della nostra ascoltatrice, che ribadisco radicalmente contrapposto a quella del suo vicino di regione, che invece ambisce a recuperare 8 milioni di euro dalle vecchie 50.000 lire. Sì, diciamo che la verità poi spesso magari sta in mezzo. Io, ecco, un primo calcolo che si potrebbe fare, tanti siti internet lo fanno, fare magari un calcolo con interessi e rivalutazione, perché poi magari anche poche lire, poi comunque la cifra diventerebbe, anche aggiornandola, insignificante, mentre magari decine di migliaia di lire nel 43 diventano cifre elevate, interessanti, al di là ora di quale criterio si usa, ma magari con i semplici interessi legali. Quindi avere già un'idea è questa. Poi senz'altro, ripeto, la cautela non è mai troppa. Se lei per esempio pensa alla questione degli interessi anatocistici, cioè le banche hanno restituito nel corso degli anni ai correntisti tanti importi. Fino a 10 anni fa c'era un orientamento della Cassazione che era granitico, nel senso che la Cassazione diceva che assolutamente gli interessi anatocistici erano leciti. Poi ha cambiato orientamento e le banche hanno dovuto restituire somme consistenti. Sono, ecco, gli interessi, perché, diciamo, sugli interessi, praticamente, esatto, per essere molto semplice con gli ascoltatori. No, ma ci mancherebbe altro. Interessi sugli interessi, poi li hanno dovuti restituire. Quindi, senz'altro, non è una follia che queste somme comunque si abbia un titolo di credito e queste somme debbano essere restituite. Anzi, lo è senz'altro. Il problema può essere gli ostacoli delle banche, fra l'altro poi spesso molte sono succedute, alcune sono andate in liquidazione coatta amministrativa, di fatto sono fallite, quindi si aggiungono difficoltà su difficoltà spesso a trovare chi è il soggetto che adesso ne risponderebbe. E poi il problema della prescrizione, del calcolo. Di fatto, avvocato, mi scusi, sempre ritornando al caso del famoso signor Oro ormai, ma ce ne sono tanti altri uguali, sicuramente questo caso potrebbe rappresentare una buona occasione per creare con una sentenza una giurisprudenza di riferimento a tanti altri casi. Perché mi pare di capire che non ce ne sia nessuna di riferimento, nessun caso è stato mai in qualche maniera disciplinato da un tribunale che ha detto questa banca deve restituire questo denaro a questo titolare di questo rapporto di conto piuttosto che questo titolare di libretto di risparmio. Ma guardi, in realtà qualche sentenza c'è, magari, ecco, casi un po' diversi in cui era stato sottratto quel libretto per cui era... Però ci sono delle sentenze che si sono occupate, non sono tantissime, ma comunque non in maniera esatta di un libretto di tanti anni fa trovato, però è capitato, almeno io parlo delle sentenze di Cassazione, poi ci sono quelle dei tribunali che magari non sono pubbliche. Dei casi in realtà ci sono stati, appunto questi principi che io le indicavo, questi degli interessi legali, il problema della prescrizione, sono stati affrontati da queste sentenze, anche abbastanza recente, ce n'è una del 99 e altre del 2003, per esempio, insomma, quindi qualche cosa c'è in realtà. Allora, forse però c'è bisogno di qualcosa di ancora più preciso, perché per capire qual è il criterio giusto per attualizzare queste somme. Marco da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Cosa le è successo? A me è successo, io sono nato nel 68. Mia nonna all'epoca, non so, al tempo del battesimo, mi ha messo un libretto di risparmio intestato a me di 10.000 lire. Sì. Dal 68. Io poi, morta mia nonna 20 anni dopo, sono andato a riscuotere alle poste e mi hanno dato 10.000 lire. Ma però, senza interessi, senza niente. Cioè... funzionare così, quando sta scritto qui 10.000,28. Comunque di fatto lei ormai, Marco, lo ha ritirato, ha estinto questo rapporto con la banca. Sì, però sì, non quindi capisco. Già. Doveva contestarlo in quel momento, Marco, perché 10.000 di 20 anni prima sicuramente nel 68, nell'88 non saranno... Come mai fanno queste cose, no? Le poste italiane? È vero che io abitavo in un paese, quindi può darsi che c'era anche... Va bene, Marco, la ringrazio. Adesso magari chiediamo un commento ai nostri ospiti. Intanto andiamo anche a Claudio da Benevento. Buongiorno. Buongiorno. Saluto tutti, volevo capire un paio di cose. Nel caso in cui venisse ritrovato un libretto nominativo, quindi non al portatore, essendo nominativo, qualsiasi altra persona non dovrebbe poter avere diciamo la possibilità di rivendicare la somma, di rivendicare qualsiasi cosa, credo. E poi c'è pure un'altra questione: nel caso in cui chiunque trovasse un libretto, indipendentemente da come possa essere al portatore o nominativo, credo che poi alla fine entra in gioco una questione anche di eredità, di quello che si può eventualmente, cioè, dovrebbe essere divisa questa cosa, non, volevo non sarà... Sì, sì, infatti. No, ha ragione Claudio, perché anche a me, mentre lei stava formulando la domanda, poi è venuta in mente la stessa questione di un'eventuale suddivisione appunto fra più possibili titolari di quell'eredità. Avvocato Palmigiano, mi riserva ancora la sua consulenza. Sì, diciamo, per quanto riguarda, e questo per esempio è previsto nella disciplina dei conti dormienti, nel caso in cui sostanzialmente sia intestata una persona che è deceduta, ovviamente bisogna provare di esserne eredi, quindi non solo i figli, aver fatto denuncia di successione, di aver accettato l'eredità e quant'altro. Nel caso del libretto al portatore, che ormai non ci sono più, comunque è la circolazione del libretto che poi dà il titolo per l'eventuale riscossione della somma. Quindi per esempio nei libretti, nel caso dei libretti al portatore, viene indicato genericamente per esempio il numero, perché per esempio quando si vuole cercare nel sito dei depositi dormienti, si può fare sia una ricerca nominativa, sia si può fare una ricerca sulla base del numero, proprio nel caso del rapporto portatore. No, tra l'altro stavo pensando anche all'ascoltatrice di prima che ci ha chiamato da Venezia, che comunque era andata in banca questa mattina per rivendicare il contenuto di un libretto di risparmio di uno zio, per cui poi per certi ritrovamenti, se non si ristabilisce una linearità dell'eredità, immagino che qualsiasi persona che ritrova possa rivendicarlo. Avvocato Palmigiano. Certo. Vabbè, comunque detto questo, sono situazioni piuttosto complesse, ci pare, anche se hanno attirato inevitabilmente l'attenzione di tutti quegli ascoltatori che appunto adesso scoprono appunto di avere questi piccoli tesoretti, o quantomeno pensano di avere questi piccoli tesoretti, ma il loro recupero appunto è tutt'altro che semplice. Fabio Picciolini, ci mancano, no, ancora abbiamo 4 minuti di tempo, però magari ricordiamo un po' i termini fondamentali della questione dei conti dormienti e di questo denaro che teoricamente il Ministero dell'Economia conta di portare verso di sé. Non è però così semplice, perché anche se siamo titolari di un rapporto presso una banca o presso le poste appunto che da 10 anni non movimentiamo, ne siamo sempre titolari, possiamo appunto risvegliarlo in ogni caso e rivendicarlo di nuovo dal Ministero dell'Economia. Allora, la situazione è un po' complessa, sia per la conoscerlo, sia più che altro per avere in teoria i soldi. Allora, diciamo che secondo gli vari strumenti, le banche e le poste, le SIM, le SGR, sono obbligate a versare al Ministero delle Finanze, appunto nel fondo rapporti dormienti, le somme. Andando velocemente, 10 anni per quello che riguarda libretti di deposito e conti correnti, 3 anni per quello che riguarda assegni circolari, 2 anni per quello che riguarda le polizze assicurative. Quindi il primo passaggio da fare, come abbiamo detto anche in precedenza, è quello di verificare o presso il sito della banca, società, assicurazione in cui abbiamo aperto il rapporto, o direttamente sul sito della Consap, ha una voce specifica conti dormienti, fondi dormienti, se quel conto è lì. In quel momento bisogna fare una richiesta appunto alla Consap per ottenere il risveglio di quei fondi. Dico subito, ecco, si diceva che era complicato, che purtroppo le cose stanno andando molto molto a rilento, perché se è vero che ormai tutti gli intermediari, quelli che ho citato prima, sono ormai hanno ormai versato i fondi al fondo, chiedo scusa per il gioco di parole, perché c'era il problema di cui abbiamo parlato molte volte in questa trasmissione delle polizze assicurative, ma oggi ormai hanno versato tutti, invece il tesoro è un po' più tirchio, si può dire in trasmissione, penso di sì, ne ridare i soldi alla Consap per poi restituire i fondi al legittimo proprietario. Tra l'altro adesso noi ci siamo soffermati sulla questione dell'eventuale risveglio per chi si fosse accorto in ritardo appunto del fatto che era titolare di un rapporto dormiente e quindi teme che questo possa essere appunto portato via, passatemi il termine, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma di fatto per chi non ha avuto la velocità appunto nel risvegliare questi rapporti, mi sembra di ricordare, dottor Picciolini, che già gli intermediari, le banche abbiano fatto tutta il passaggio di comunicazione al Ministero dell'Economia delle somme dormienti presso di loro e quindi c'è già una quantificazione di quanto teoricamente denaro il Ministero dell'Economia può trattenere. Esatto, le segnalazioni sono tutte fatte, ma aggiungo che tranne il 2011 chiaramente già anche tutti i fondi sono stati già girati al Ministero, quindi quello che siamo riusciti a fare anche come associazione dei consumatori, di trovare accordi, conciliazioni con le singole, così in intermediari ormai non è più possibile. Benissimo. Mi permette di aggiungere una cosa sulla... Rapidissimo, perché siamo in chiusura, rapidissimo. Sì. Io capisco chi vuol far causa per 50.000 lire, perché sono diventate 8 milioni o quello che pensavo io. Attenzione, perché 2 lire e mezzo o 5 lire, come vuol dire veramente prendere poco, e probabilmente il gioco non va da candela, la faccia dell'avvocato costa più del recupero che si può. Infatti, avvocato Palmigiano, questa toccava anche a lei naturalmente. No, è concordo francamente, dico, vanno fatte solo per valoriti. Esatto, non avventuriamoci in queste operazioni sognando di aver trovato veramente la stanza del tesoro, adesso non mi viene un'immagine magari da favola appunto da poter regalare agli ascoltatori per rendere l'idea. Detto questo, speriamo di aver chiarito le idee agli ascoltatori appunto che si trovano in questi casi. Allora, io vi saluto, grazie a Fabio Picciolini e Alessandro Palmigiano per essere stati con noi. Come sempre, Salvadanaio torna domani, faremo una chiusura della settimana sui mercati finanziari, perché quella che abbiamo vissuto è stata davvero turbolenta. Oggi mi sembra di capire che lo sarà altrettanto. Milano sta perdendo l'1,27%. A tutti, buona giornata.